allora, che in alcune scuole milanesi ti chiedono di arrivare uomo munita. Le donne arrivano e dicono: ma il ballerino ce lo date voi, è compreso nella quota. Che ti è piaciuta questa molto. Serie di similitudini mi che piace molto. Attento, Simone, attento alla risposta. Questo è un suggerimento della donna di cuore. E denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho acceso. Aiuto, aiuto, ho fatto il mutuo, ho preso. Venerdì Santo un po' strong per i nostri ascoltatori. Venerdì Santo in cui ci concentriamo sui temi della protezione, polizze legate ai mutui, allo scoppio incendio per la casa, le RC auto. Gli italiani si assicurano prevalentemente per ciò che è più o meno obbligatorio, ma per il resto la protezione per le famiglie italiane è opzionale ed è anche comprensibile. Lo hanno detto e spiegato molti esperti del settore. Certamente l'RC auto cannibalizza tutto il resto. Storicamente le tariffe auto sono state considerate sempre piuttosto elevate, si mangiano tutte le risorse che magari in parte potrebbero essere destinate ad altre coperture assicurative per la famiglia, e questo è un tema. D'altro canto, l'offerta assicurativa si è anche ampliata molto in questi anni di crisi. Abbiamo scoperto che chi, ad esempio, aveva stipulato polizze contro la perdita del posto di lavoro, e questa è davvero una nicchia che potremmo definire quasi microscopica. Quasi microscopica in Italia, in pochissimi si proteggono da questa eventualità. Certo che qua la scaramanzia la fa da padrona, e comunque chi lo ha fatto ha potuto affrontare anche l'improvvisa mancanza di reddito grazie alle coperture assicurative che invece sono state stipulate. Aggiungiamo ai commenti che faremo questa mattina su questo tema un ultimo aspetto. La vera rivoluzione degli ultimi anni è stata certamente la nascita e il consolidamento della banca assicurazione, ovvero la distribuzione di prodotti assicurativi attraverso il canale bancario. Un settore che ha una storia consolidata in Italia perché parte dalla fine degli anni 90, ma che ha registrato una crescita significativa solo a partire dagli ultimi anni. E quindi, insomma, avrete capito che stamattina parleremo di italiani e ombrello assicurativo. Oggi facciamo un punto della situazione con Alessandro Scarfò, amministratore delegato di Intesa San Paolo Assicura, che è già collegato telefonicamente con noi. Intanto lo salutiamo. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. E buon Venerdì Santo, naturalmente, è il maggior gruppo bancario italiano che, tra l'altro, proprio da poco è sbarcato nel settore delle polizze per la casa di nuovissima generazione. E anche noi, Deborah, nella seconda parte della trasmissione, a partire dalle 11.45, ci assicuriamo e parliamo di sicurezza dei nostri bambini a casa e in auto. Il Ponte di Pasqua è un'occasione per andare a trovare i nonni, gli amici, i parenti. Poi Pasquetta è per tradizione, no? Il giorno della gita fuori porta. Allora partiamo, ma assicuriamoci per l'appunto che il pupo e i pupi viaggino protetti. I dati ci dicono: ogni anno in Italia circa 8.000 bambini sotto i 13 anni vengono coinvolti in incidenti stradali a bordo di autovetture. Per 100 di loro le lesioni riportate risultano letali. I bambini, soprattutto quelli più piccoli, in virtù anche della loro struttura, sono naturalmente più esposti degli adulti ai traumi provocati da incidenti di varia natura, ma spesso nei viaggi si tende a privilegiare il loro comfort a discapito della sicurezza. E si vedono, lo vediamo tutti, bambini piccoli che scorrazzano tra i sedili, oppure sono in braccio alla mamma o al papà, seduti spesso nella posizione accanto al guidatore e a pochi centimetri dal cruscotto. Allora, se avete bambini piccoli, questa è la puntata dedicata a voi. Parleremo di viaggi, di giochi. Parola d'ordine e sicurezza: 800 24 00 24. Si apre l'ufficio del direttore, vedi una luce che ti prende. Lui era seduto con una finestrona dietro su un trono con l'anello della banca. Per te c'era un inginocchiatoio, ti mettevi lì. Diceva: prego, baci l'anello e poi dica cosa posso fare per lei. classico, quello di Enrico Bertolino, l'approccio di una di uno qualunque di noi in banca, quantomeno nell'immaginario che avevamo. Allora, oggi insieme ad Alessandro Scarfò, amministratore delegato di Intesa San Paolo Assicura, facciamo, come vi dicevo, un po' un punto della situazione sugli italiani in rapporto con l'assicurazione. Ci faremo dare qualche delucidazione sulle tendenze del mercato, su cosa cercano gli italiani, come approcciano alle soluzioni assicurative offerte in banca. Perché ci chiediamo anche effettivamente per quale motivo si dovrebbe andare in banca a fare una polizza. Il grande tema sul quale si cerca di far crescere interesse e sensibilità è anche quello della salute, ma stamattina proveremo, se ce la facciamo, a fare anche qualche esempio concreto sul costo attuale delle protezioni per la casa e per la famiglia. Insomma, 360 gradi il tema assicurativo. 800 24 00 24, fate se volete un punto con noi sulle coperture che avete scelto per voi e per la vostra famiglia, oppure vi state guardando attorno proprio in questo momento e avete anche un po' di confusione in testa, perché effettivamente l'offerta commerciale è talmente ricca che fate anche fatica ad orientarvi. Allora, da dove partire per capire qual è il miglior contratto per voi? Commentate il tema di oggi anche se volete alle 349-238-6666. Ma, dottor Scarfò, tanto per fare un po' di ABC sul tema che abbiamo scelto oggi, se dovesse descrivere ai nostri ascoltatori che non hanno mai sentito parlare di banca assicurazione, lo dico alla... Lo dice alla Nico. No, lo dico alla... alla francese o all'anglosassone, però banca insurance è come dire di derivazione francese. Come possiamo definire questo modello distributivo, che non è nuovissimo perché è sbarcato in Italia negli anni 90, ma diciamo che ha avuto un percorso nel nostro paese un pochino più lento e complicato che nel resto d'Europa, dottor Scarfò? Beh, diciamo che la banca assurance, se vogliamo chiamarla la francese, alla francese, in questo caso ha una storia che nasce prima di tutto sulle coperture assicurative vita, perché non su quelle relative al, diciamo, all'assicurazione danni. Questo perché il vita è per sua natura uno strumento alternativo di accumulo, quindi di risparmio, che è stato affiancato agli strumenti che tradizionalmente la banca ha sempre venduto. E quindi di conseguenza era più, se vogliamo, connaturato alle corde di chi proponeva questi prodotti ai clienti. Questo è una, come dire, un'area nella quale la banca assicurazione si è ormai consolidata a un posto di leadership importantissimo. Oggi sostanzialmente i 2/3 del vita che vengono venduti nel mercato sono venduti da banche. Invece la storia sui danni è completamente diversa, perché i danni sono stati tradizionalmente, e in qualche misura sono ancora tradizionalmente, un'area importante dominio, chiamiamolo così, da parte degli agenti di assicurazione e degli assicuratori tradizionali. Anche questo... se voi, ecco, come banca in realtà state ampliando, parlo di voi come Intesa San Paolo, ma anche tutte le altre banche, la vostra offerta anche a questo ambito, poi magari fate un pochino più fatica a distribuirlo, ma in ogni caso, volendo, c'è. Ma sicuramente c'è, devo dire che ormai è una tendenza diffusa negli ultimi anni a tutte le banche, devo dire che praticamente tutte hanno un'offerta sul mondo della protezione della famiglia piuttosto ampia, molte ormai hanno un'offerta sul mondo dell'auto, e i numeri dimostrano che in un mercato che ogni anno continua a perdere, diciamo, qualche cosa anno su anno, soprattutto guidata dalla tendenza dell'auto, ma anche dal mondo della protezione della famiglia, la banca assicurazione ormai, pur partendo da una base relativamente piccola, sta crescendo da un certo numero di anni. Quindi, certo, insomma, la tendenza è che il mercato sta cominciando ad apprezzare il fatto di comprare i prodotti danni in banca. Allora qua diciamo che lei un po' con questa risposta mi ha, tra virgolette, anche bruciato la domanda successiva che avrei voluto farle, no? Perché parlavamo un po' della penetrazione lenta che questo mercato ha avuto in Italia per tutta una serie di ragioni, un po' anche perché gli italiani dal punto di vista, come dire, culturale fanno fatica a pensare a coperture assicurative extra oltre l'auto. Però non si fa un po' di confusione? Come avete percepito anche l'interesse da parte delle famiglie italiane? Ci sono assicurazioni che diventano banche, mi viene in mente ovviamente il grande caso di Generali, che a un certo punto è diventata anche Banca Generali, no? E grandi banche che vendono prodotti assicurativi. Perché è proprio necessario avere anche questo modello, dottor Scarfò? Non è che ognuno può fare il suo lavoro in Italia, ovviamente non è che voglio provocarla, però insomma ci interessa anche capire le motivazioni per cui c'è stato questo cambio d'abito. Esatto. Un abito doppia stagione, insomma. Beh, diciamo che in effetti non è soltanto un tema che riguarda le banche e le assicurazioni. Se noi guardiamo un po' tutto il mercato, ci sta dicendo che c'è, diciamo, quelli che parlano bene parlano di una ibridizzazione dei canali, no? Cioè è sempre più ampio la situazione nella quale chi ha una presenza importante, diciamo, sul territorio, presenza che può essere fisica o può essere web o un'integrazione delle due, e ha una base clienti importante che conosce bene, tende ad allargare la base di prodotti che vende al di là della categoria merceologica con la quale è partita. Questo è un elemento che ci stanno dando tanti settori, anche al di fuori, ripeto, del mondo finanziario, e che ci stanno dando tanti nuovi entranti. Pensiamo ad Amazon, pensiamo a Google, pensiamo a come dire, società che sono partite magari diciamo esplorando soltanto alcune nicchie, che oggi hanno degli ambiti di vendita molto ampi proprio perché sfruttano una base clienti. Basti pensare alla rivoluzione delle poste degli ultimi anni per ecco, appunto, commentare ulteriormente questo aspetto. Allora, tra l'altro, a proposito del fatto degli ascoltatori che non si assicurano per le esigenze che hanno, le leggo solo quello che ci scrive Matteo. Che ci racconta: ho una tabaccheria, avevo chiesto un preventivo per rapina e furto, quando me lo hanno presentato ho risposto: dottor Scaffò, senta questo, preferisco essere rapinato da un vero rapinatore. Allora, qua ci sono evidentemente attività imprenditoriali, commerciali, che appunto per tutelarsi devono spendere un po'. Evidentemente magari Matteo ha questa tabaccheria in una zona che viene considerata un po' rischiosa per un assicuratore, però effettivamente c'è anche chi ci scrive, ecco, Paolo anche fa un commento, no? L'assicurazione è un ombrello che si chiude quando piove, quindi tradizionalmente un po' Paolo. A parte, diciamo, le risorse che in questo momento non ci sono, perché ovviamente c'è la crisi e tutto quello che vogliamo dire a proposito delle difficoltà delle famiglie italiane in questo momento, ma è anche vero che l'assicurazione viene tradizionalmente considerata quella protezione che, quando ha bisogno di proteggere, come dire, tira fuori tutte le clausole contrattuali possibili per non fare quello che deve fare. Dottor Scaffò, oggi qual è la situazione da questo punto di vista, secondo lei? Ma io credo qui c'è, diciamo, ci deve essere uno sforzo molto forte da parte di tutti gli assicuratori nell'essere molto chiari e nel dare molta semplicità ed evidenza sulle cose che vengono coperte e su quelle che invece non sono coperte. L'altro tema è che spesso, devo dire, si è giocato, e qua parlo soprattutto di alcuni tipi di assicurazione, penso alle assicurazioni di salute sostanzialmente, su assicurazioni che coprissero un po' tutto e quindi coprissero sostanzialmente anche, diciamo, la spesa minimale, la visita specialistica per il figlio dal pediatra o che dir si voglia. Il punto vero, io credo che le coperture sono tanto più mirate quanto nella realtà puntano a quegli eventi importanti che hanno, come dicono gli assicuratori, bassa frequenza, quindi fortunatamente succedono raramente, ma alto impatto, nel senso, quando succedono hanno in effetti una ripercussione sulla vita economica e non soltanto della famiglia, per cui in qualche maniera sono quelli sui quali, dai quali una famiglia deve ragionevolmente essere coperta. Poi, come dire, ripeto, è anche un fatto molto di trasparenza e di come le polizze sono costruite. Su questo però devo dire, mi sembra che il mercato stia andando in una direzione di sempre maggiore trasparenza e chiarezza. L'altro punto vero è che la sensazione di dire: se io non ho l'assicurazione risparmio il premio se non mi succede l'evento, è vera fino a un certo punto. Perché poi, se andiamo a vedere, molte famiglie oggi vanno, come si dice, in autoassicurazione, cioè hanno delle componenti di out of pocket, quindi di denaro che loro sborsano, pensiamo alle polizze salute, che è molto importante. Cioè è vero che pochi italiani sono assicurati sulla salute, ma la spesa della salute, diciamo, sulla salute fatta dalle famiglie italiane è per l'85% spesa out of pocket, quindi spesa che viene fatta al momento in cui c'è il bisogno. Non ho predisposto una copertura prima e quindi pago, diciamo, specificamente prestazione per prestazione, bisogno per bisogno. E quindi, insomma, come dire, razionalizzando quelle spese, come le chiama lei, out of pocket? Out of pocket, quelli che tiro fuori dalla tasca e metto, esatto. E metto, diciamo. Se si facesse un bilancio di tutta quella spesa là, ci uscirebbe fuori, lei dice, una copertura assicurativa che magari sarebbe anche inferiore in termini di premio annuale e coprirebbe tutto quello che è necessario coprire nel corso di un anno. In molti casi sì, anche perché, come dire, un compratore istituzionale di prestazioni sanitarie è per definizione un compratore migliore, perché compra grandi volumi rispetto alla famiglia singola che compra, voglio dire, il singolo ticket. Quindi un bel dibattito, insomma. Allora, 800 24 0024, abbiamo in linea con noi Salvatore, ci chiama dalla provincia di Latina. Io, buongiorno. Pensavo che tutti fossero partiti stamattina, che magari è in viaggio. Sì, esatto, sì, buongiorno. Buongiorno Salvatore, ci dica tutto. Allora, brevemente, ringrazio intanto per la disponibilità. Due episodi riguardo a discorsi assicurativi. Avevo un'assicurazione qualche tempo fa stipulata con l'allora Banca di Roma, ultimo 20 anni di Cizzata, che però è stato un prodotto che mi ha dato grande, perché al termine del periodo di, diciamo così, di durata, non sono riuscito a riprendere neanche il capitale garantito. Questo è un caso. Il secondo caso, proprio riguardo alla prossima, tra qualche penso mese, stipula di mutuo proprio con Banca Intesa, discorso assicurativo, in qualche modo mi sono visto quasi obbligatoriamente proporre una polizza classica scoppio incendio. Certo. Però io, essendo un dipendente pubblico, avendo anche convenzioni con compagnie assicurative bancarie, ho trovato un prodotto sicuramente più conveniente. E però, quando è stato prospettato questo tipo di situazione, ovviamente posso farlo perché sono libero esatto, mercato. Non ha però esatto, lei dice insomma lì in banca le hanno storto un po' il naso. Esattamente, la Banca Intesa in particolare. Guardi, dice... abbiamo qua l'amministratore delegato di quella parte di Banca Intesa San Paolo che si occupa proprio della distribuzione di polizze assicurative. Intanto Salvatore la ringrazio, sul primo caso facciamo un po' di fatica a risponderle, anche perché Banca di Roma, dottor Scarfò, adesso lei non le faccio rispondere su questo, non esiste più perché è diventata poi Capitalia, poi è andata in Unicredit, chissà quella polizza che caratteristiche aveva, lui comunque non ha più ottenuto il capitale garantito, dovremmo risalire al contratto. Secondo aspetto, per chi fa il mutuo, sappiamo bene, soprattutto quando è di importo rilevante, molto spesso appunto c'è l'obbligatorietà richiesta da parte della banca di fare la copertura assicurativa per lo scoppio e incendio. Non c'è però l'obbligo di sottoscriverla con la medesima banca con cui si fa il contratto di mutuo, perché c'è stata tutta la polemica, lo ricordiamo, sul conflitto di interesse sulla banca che fa sottoscrivere il mutuo e che è eventualmente come dire, beneficiaria della polizza stessa, non il mutuo. Assolutamente, ecco. È chiaro che da questo punto di vista, in questo caso c'è la possibilità di portare, diciamo, in banca una polizza che copra sostanzialmente l'incendio e lo scoppio, e quindi di fatto questa polizza può essere acquisita sul mercato, può essere già di proprietà dell'assicurato. Quindi da questo punto di vista, come dire, il mercato è totalmente aperto ed è corretto anche verificare caso per caso le tariffe. Devo dire che da questo punto di vista il mercato assicurativo è un mercato, e parlo soprattutto del mondo dell'auto, che ha delle caratteristiche di trasparenza spesso maggiori di altri mercati dei quali si parla di meno. Quindi la possibilità di confrontare, diciamo, offerte diverse da parte di compagnie diverse è una delle cose che l'assicurato, prima di diventare assicurato, deve assolutamente fare. E quindi insomma l'ascoltatore ha tutto il diritto di portare un'altra compagnia a copertura del suo mutuo, anche se lo erogate voi. Però è anche vero che assicurare il mattone, dottor Scarfò, è un business rilevante per voi, anche se come dire, negli ultimi anni l'investimento nella casa ha dato un po' meno soddisfazione agli italiani, forse ha dato più grattacapi che altro per le questioni fiscali che conosciamo bene, però per il settore bancario assicurativo è appunto un business non trascurabile. Beh, non c'è dubbio, la cosa sorprendente è che spessissimo la casa, soprattutto la prima casa, è l'asset principale, il patrimonio principale che la famiglia possiede, eppure spesso alla fine la famiglia non copre con una copertura assicurativa questo stesso patrimonio. Se andiamo a vedere, sostanzialmente poco più del 20% dei proprietari di casa hanno effettivamente acceso una polizza abitazione, e questo è, come dire, un elemento anche questo di attenzione sul quale una riflessione probabilmente va fatta. Quello che si nota effettivamente è una crescente sensibilità delle generazioni più giovani, e questo è un elemento anche questo che fa pensare. E che cosa cercano particolarmente i giovani, dottor Scarfò? Insomma, su che tipo di sensibilità si orientano? La casa, la salute, la famiglia, gli infortuni, la credit protection, poi parleremo di questo mondo che si va particolarmente consolidando da qualche tempo a questa parte. Beh, io credo che i giovani partono da una base culturale molto diversa dalle persone della generazione precedente, cioè hanno la sensazione di avere o di poter godere delle tutele, diciamo, sia da parte dello Stato, quindi nel mondo del welfare, sia magari da parte delle imprese nelle quali lavorano, minori, molto inferiori rispetto a quelle delle quali hanno goduto i loro genitori, e quindi di conseguenza sono più attenti a crearsi degli elementi di protezione, chiaramente nell'ambito di un reddito che è quello che è, che quindi non permette evidentemente degli utilizzi indiscriminati, va usato in modo molto oculato. Però sicuramente c'è una propensione a scegliere in modo attento, guardando con attenzione anche il prezzo, ma a scegliere. E quindi questo sicuramente sarà una tendenza che porterà una crescita importante, diciamo, della frequenza di famiglie, di nuclei familiari, di persone con coperture assicurative nell'ambito della protezione familiare. Allora, qua abbiamo l'imbarazzo della scelta. O sentiamo gli ascoltatori, ci prendiamo la pausa senza borsa stamattina. Cuore e denari. Quando i bambini fanno c'è un topolino. Mi sto muovendo. Cammina. Punta diritto verso i miei giocattoli. Beh, bene. Ma, momento, forse è meglio che le spieghi cosa sono i giocattoli prima che li distrugga. È già arrivata. Tutti i bambini fanno dammi la mano. Mamma. Iniziano a gattonare, accennano i primi passi, sono buffi, Tu li vedi coi tuoi nipoti e così si avventurano tra i locali di casa come dei piccoli esploratori e portano alla bocca tutto quello che trovano lungo il loro cammino. È normale. In questa fase che gli psicologi chiamano fase orale, la bocca proprio è per il bambino uno strumento di conoscenza. Diventa grande, si rende pian piano autonomo, ma è inevitabile, si espone ad un livello di rischio più alto. Allora ogni anno, lo sappiamo, sono decine di migliaia i casi di ingestione accidentale di sostanze tossiche per uso domestico, candeggina, sapone, il lucido da scarpe, gli insetticidi, i trucchi della mamma. Ecco, allora non bisogna vivere nella paura, non possiamo far vivere i bambini sotto una campana di vetro, ma sicuramente organizzare gli spazi con scrupolo attenzione potrebbe essere un'ottima idea. Ne parliamo tra poco a partire dalle 11.45. Sicurezza del bambino a casa e in auto. 800 24 00 24. Iniziate a prenotare i vostri interventi. Grazie. E te pareva la donna? A Moby Dick, ma perché te metti gli occhiali? Ma state zitta, fracicone, ma come io stavo una tanto bella regolare, te che fai, mi inchiodi? E inchiodo sì, c'è star semaforo, tu guidi la cazzo le cane. Ma tu guarda che mi ha combinato sta fagottara. Ma de che, amore, ma sei manco te l'ho toccato sto cagatore di macchina. Modena, perché se parlavo dei cessi allora stavo a parlare di te. Ma come te permetti, a pecoraro, a gaffone. Pecoraro a me, ma te vedi che se te metti le brelle pare Giuliano Ferrara. Ma vedi annate, una broccola. Ma fallo finire che sei notte addosso. Ma fammi morire ammazzata, a te chi tu dice, ma tu guarda sta budellona sul volo. Budellona. Situazioni che conosciamo bene perché gli italiani al volante veramente tirano fuori il meglio di sé, soprattutto anche di fronte al più microscopico tamponamento. Allora, assicurazioni, questo è il tema che affrontiamo stamattina. Cosa preoccupa maggiormente e da cosa ci si vuole proteggere? Secondo Eurisco, l'incidente stradale si colloca al primo posto fra i rischi percepiti dagli italiani. Il 28% del campione si sente molto o abbastanza esposto, a cui seguono le spese impreviste legate alla salute, 23% alla casa, 19% alla malattia grave, 23%. Le preoccupazioni sono anche legate al reddito, perché le fasce a basso e medio reddito temono maggiormente i rischi legati alla salute più tradizionali, mentre gli italiani con reddito elevato sono maggiormente sensibili a rischio di malattia grave o decesso. E voi, visto che peraltro questa è stata la nostra settimana delle tribù, perché abbiamo cominciato con quelli alimentari, ieri abbiamo fatto le tribù dei risparmiatori e del ballo, e del ballo. Abbiamo oggi proprio lanciato un messaggio per a che tribù del ballo appartenete, ricordi? Esatto, e oggi invece facciamo un po' così, questi gruppi di assicurati, in quale gruppo vi riconoscete, che copertura assicurativa state considerando, quelli che hanno il timore naturalmente per la propria casa, per la propria salute, per tutto il nucleo familiare. Quale insicurezza agita maggiormente la vostra famiglia, ma per quale motivo ancora non avete stipulato nessun contratto? 800 24 00 24 per confrontarvi con noi. Stamattina ne stiamo parlando con Alessandro Scarfò, amministratore delegato di Intesa San Paolo Assicura. Rispondo agli ascoltatori che ci chiedono perché non avete invitato nessun agente assicurativo. Perché sono venuti tantissime volte broker, compagnie, perché oggi abbiamo focalizzato l'attenzione sulla banca assicurazione, perché oggi andando in banca spesso ci sentiamo proporre anche l'assicurazione e di questo modello non abbiamo parlato mai, per cui ci è sembrato oggi utile anche raccontarvi un po' di questo mercato. Proprio così. Intanto volevo leggere un messaggio che ci manda Antonio, ma che racconta un po' un modo di pensare riguardo alle assicurazioni per spiegare perché gli italiani non si assicurano. Dottor Scarfò, Antonio ci scrive che gli italiani non coprono la casa con polizze perché tanto poi le assicurazioni trovano mille cavilli per non pagare mai. Ed è un concetto che torna in molti messaggi. Un'obiezione che il mondo assicurativo conosce molto bene perché gli viene mossa molto spesso, dottor Scarfò. Sì, è un'obiezione, diciamo, che abbiamo sentito tante volte e dove devo dire che, ripeto, la mia sensazione è che il settore stia facendo molto per rendersi comunque più trasparente e, come dire, dare al cliente una visione molto chiara di che cosa succede dal momento in cui il sinistro viene denunciato. Che è poi il momento della verità, il momento in cui il cliente giudica sostanzialmente la polizza che ha acquistato. E questo è uno probabilmente delle problematiche più evidenti che bisogna superare. Noi come Intesa San Paolo Assicura abbiamo fatto una scelta, per esempio sulla casa, diciamo un po' radicale, cioè attraverso proteggendo la casa con un dispositivo tecnologico collegato a dei sensori. Nella realtà, quando c'è il problema in casa del cliente, lo sappiamo quasi prima noi del cliente, diciamo così, perché ovviamente viene denunciato subito attraverso la tecnologia, e questo consente di essere vicini al cliente nel momento stesso in cui poi lui deve, come dire, porre rimedio al problema che infatti che volevo manifestato. Arrivarci tra poco a questa novità, dottor Scarfò, perché l'abbiamo paragonata un po' anche alle novità di mercato che c'è da qualche tempo a questa parte, che è quella di installare la scatola nera, no, nella propria auto. Peraltro nell'ultimo pacchetto sulle liberalizzazioni del governo Renzi c'è anche questo incentivo che teoricamente le assicurazioni dovrebbero riconoscere ai conducenti che accettano di installarla nella propria automobile, appunto. Vedremo se questo parallelo auto-casa calza, ma prima avevamo il nostro sospeso, il nostro cavaliere, sì, Adelio. Esatto. Non ci siamo dimenticati di lei, eh? Adelio, buongiorno. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Io sono dall'altra parte della scrivania, lavoro in banca e quindi propongo anche le polizze. E quindi? Pertanto posso dare esperienze di ciò che accade quando propongo una polizza. Ecco, che cosa accade? I clienti tendenzialmente sono scettici e vedono il premio come un costo vivo, ma soprattutto perché non hanno una visione del rischio nel quale si incorre o si incorre sempre. Non le dico quando si parla delle assicurazioni sulla vita, partono gli scongiuri di tutti i tipi. Beh, a Napoli ce lo possiamo immaginare, Adelio, effettivamente. Corna, cornetto. È vero, è una questione anche culturale, lo abbiamo detto mille volte, è anche vero che noi viviamo in un paese in cui lo Stato è sempre protetto molto da tante eventualità, per fortuna, per cui diciamo non abbiamo proprio le tradizioni privatistiche tipiche del mondo anglosassone, che invece hanno portato molto di più famiglie e cittadini appunto sulla strada delle protezioni assicurative. Ci sono tanti motivi appunto dietro a queste tendenze. Detto questo, sentirei anche Giovanni da Savona, così almeno arricchiamo un po' il nostro gruppo di ascoltatori pronti a conversare con Alessandro Scarfò stamattina. Giovanni, benvenuto. Buongiorno, grazie per avermi chiamato. Sì, ci dica. Allora, io volevo portare l'esperienza che abbiamo avuto piuttosto negativa proprio con Intesa San Paolo. Ecco. Mio figlio ha un mutuo sulla casa garantito da una assicurazione sottoscritta al momento della sottoscrizione del mutuo. Questa assicurazione dovrebbe coprire il pagamento delle rate in caso di inabilità al lavoro. Mio figlio è un lavoratore autonomo. Ha avuto un incidente con un infortunio grave ad un rene, alla spalla, eccetera, alla metà di luglio, andando a fare un preventivo per un suo cliente. Mi pare sì, intorno alla metà di luglio, chiuso verso la fine di novembre, assolutamente riconosciuto dalla sua assicurazione personale come infortunio piuttosto grave, è stato anche ricoverato, eccetera. Abbiamo portato tutta la documentazione che ci è stata chiesta nella filiale di Intesa San Paolo, la quale ha provveduto ad inoltrarla agli uffici competenti. Praticamente ci hanno rifiutato l'indennizzo, quindi non hanno pagato le rate del mutuo, perlomeno non hanno dato a mio figlio i soldi che sarebbero serviti per coprire le rate del mutuo durante il periodo di inabilità dal lavoro, certo. Senza dare poi alla fine alcuna motivazione, senza scrivere peraltro neanche nulla. In filiale non sanno mai niente, per quanto siano gentili, però effettivamente dicono che non è di loro competenza. Alla fine non si sa mai con chi parlare e a tutt'oggi pare ufficiosamente, ripeto, perché comunicazioni scritte non abbiamo avuto, che non sia riconosciuto assolutamente nulla. Quindi le dico, è un'esperienza negativa proprio con Intesa San Paolo. Giovanni, allora intanto glielo dico, ci scriva a cuoredenari@radio24.it con i termini principali della questione, se vuole darci anche riferimenti, se vuole naturalmente, del suo contratto. Sono certa che Alessandro Scarfò darà un'occhiata a questa documentazione, poi a prescindere dal fatto che magari, ammettendo anche, dottor Scarfò, che Giovanni non abbia diritto ad avere l'indennizzo che si aspettava, quantomeno il figlio. Però quello che a me le dico è una cosa personale, rimane più sgradevole da questa conversazione, che comunque veramente le persone molto spesso, parlo di voi come con tanti altri soggetti, fanno fatica ad avere le risposte, cioè non ti posso indennizzare, mi vuoi spiegare con correttezza le motivazioni per cui non mi spetta questo indennizzo, qual è la clausola del contratto che io non ho capito, e quindi magari un'altra volta che stipulo una polizza assicurativa me le vada a rileggere prima di firmare, no? Lei, io penso che anche lei sia abbastanza colpito, no, dalla testimonianza che abbiamo ascoltato. C'è dubbio, questa è la testimonianza che, come dire, chi lavora in una compagnia di assicurazioni non vorrebbe mai sentirsi dire, nel senso che è l'esempio di una situazione gestita perché male. Poi immagino che a fronte di un caso come quello di Giovanni, di una persona non indennizzata come si aspettava, ce ne saranno 20 che invece sono state coperte come si aspettavano dalla polizza assicurativa, perché chiaramente stamattina prendiamo i casi problematici, dottor Scarfò. Ma questo non c'è dubbio, ed è normale quando si parla di questi temi, come dire, nelle situazioni in cui le cose sono andate bene non fanno testo, però è chiaro che insomma sono le situazioni che non sono state gestite in modo corretto che devono essere prese in esame, perché sono quelle che ci aiutano a migliorare. Sicuramente da come Giovanni lo ha raccontato è una situazione ancora aperta, quindi dove una decisione evidentemente non è stata presa, non so per quale tematica, per quale motivo. L'assenza di comunicazione è evidentemente sgradevole per il cliente e inaccettabile per noi. Esatto, anche però per come dire, sicuramente se mi date gli estremi la verifica la facciamo fare immediatamente. Come succede sempre quando si chiude il cuore denari ufficiale, si apre quello dello sportello del pomeriggio. Con Nicoletta siamo sempre molto attive a smistare ovviamente tutte le richieste, quantomeno gran parte delle richieste che ci arrivano da parte dei nostri assicuratori. Dottor Scarfò, noi dobbiamo salutarla perché il tempo a nostra disposizione è terminato. Abbiamo capito che adesso c'è tutto il mondo della copertura per la casa che si muove appoggiandosi su dispositivi elettronici abbinati, quindi mettiamo un po' queste scatole nere nelle nostre abitazioni. Ci dà solamente un'idea di quanto costa una polizza che ci chiede anche la contestuale installazione del dispositivo elettronico in casa, la scatola nera dell'abitazione? Beh, diciamo che le due cose sono acquisibili in maniera separata e quindi si può acquisire la polizza anche senza la box e i servizi, o la box con i relativi servizi senza la polizza. Quindi c'è la possibilità di comprarle anche separatamente a seconda della sensibilità, certo, e dell'orientamento alla spesa di chi evidentemente sta valutando l'acquisto. Nel caso in cui si comprino contestualmente c'è uno sconto evidentemente perché si fa un anche se entrano i ladri il dispositivo se ne accorge? Sì, il dispositivo funziona sia da antifurto per segnalare tutti i problemi in ambito della sicurezza o della prevenzione degli incidenti che succedono in una casa, la perdita d'acqua, il principio di incendio, il fumo, il gas e via dicendo, le cose che normalmente succedono in un'abitazione di una ma per chi famiglia. Accetta di installarli in casa funziona come la scatola nera, fate pagare un po' meno di premio assicurativo? Se sono abbinate la polizza e il dispositivo tecnologico, c'è uno sconto sull'insieme dell'acquisto. Sì, esatto. Va bene. Grazie ad Alessandro Scarfò per aver dedicato un po' del suo venerdì santo anche a Cuore Denari. Buon lavoro per tutto. Auguri. Grazie a voi, auguri. Grazie a tutti gli ascoltatori. A presto. Cuore e Denari. Viaggiare evitando le buche più dure. Via- viaggerete con il pupo oppure siete in macchina con lui, dove è seduto e cosa sta facendo? 800 24 0024, chiamateci, usate il nostro numero verde per dare e ricevere consigli. Il tema è sicurezza, che non significa tenere il bambino sotto una campana di vetro o limitare il suo campo d'azione, ma garantirgli un ambiente sicuro e quindi dargli delle regole e mettere in atto qualche precauzione. E con noi oggi il dottor Emanuele Giglioni, pediatra responsabile dell'osservazione breve intensiva all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma. Buongiorno dottor Giglioni. Buongiorno a voi. Buongiorno. È una new entry il dottor Giglioni. Siamo intanto benvenuto. Andrà bene questo ingresso. Iniziamo il nostro diario di bordo, iniziamo dalla partenza, anzi un attimo prima della partenza, perché i bambini, lo sappiamo, spesso tendono a soffrire la macchina, il mal del movimento può capitare in macchina, ma naturalmente anche in nave, un po' meno in treno, ma insomma questo mal di movimento è causato dai movimenti irregolari del corpo che sono indotti proprio da un moto esterno oppure anche da un input di tipo visivo. Qualche consiglio per evitare che il nostro bambino ne possa soffrire, perché ci sono genitori che si attrezzano con giochi, giochini, sacchetti, cercano di farli addormentare prima, oppure che vogliono magari dare qualche farmaco, ma temono di che il farmaco diventi, no, sia troppo forte. Dottore, partiamo. Allora, partiamo con qualche consiglio. Il bambino chiaramente che soffre di mal d'auto è un bambino che ha un'età compresa tra i 3 e i 12 anni di solito, e che chiaramente ha questa sensazione di mal di movimento che si chiama cinetosi. Praticamente i consigli che possiamo dare sono quelli di tenere i bambini semi seduti o abbastanza seduti, quindi anche sul seggiolino va benissimo, e di farli, se non sono addormentati, che sarebbe la cosa migliore, di farli intrattenere con giochi e giochetti che si possono distrarli. Ecto, esatto, perché si canta, vero? Si può fare di tutto, esatto. Allora, tenerli occupati. Noi vogliamo chiedere agli amici che ci stanno seguendo e magari sono in viaggio di raccontarci come tengono occupati i loro bambini e di ricordarsi anche quando erano bambini che cosa facevano i loro genitori per evitare, no, di farli soffrire durante il tragitto. 800 24 0024. Dottore, ci sono però anche i braccialettini, i cerottini da applicare dietro l'orecchio, qualche farmaco, lei che dice, per casi estremi oppure proviamo a intrattenerli o a farli dormire un po' prima di infilarli in macchina? Cosa più naturale è sempre la cosa migliore. Bravo. Nei casi estremi, diciamo che non c'è una dimostrazione scientifica sui braccialetti o altre situazioni di questo genere, ma poi la nostra esperienza ci dice che in alcuni bambini questi possono essere utili. Allora, e a proposito di nausea, mal d'auto, io voglio consigliarvi il punto P6. E questo? Tu forse lo conosci, perché ne avevamo parlato. Sì, è un punto di agopuntura che si trova due o tre dita sotto la base della mano, esattamente tra i due tendini dell'avambraccio. Bene, strofinando delicatamente o in senso anche appoggiando il polpastrello e lo muovi un po' in senso orario, questo punto. Ah, ecco, lo sì, vedi, visto, è facile, vado, la mano, vado, finisce la mano, due o tre dita sotto, tra i due tendini c'è questo puntino P6, sembra che, secondo me funziona, facendo delle leggere pressioni la nausea sparisca. Allora, voi potete provare a farlo, potete anche, se avete un bambino un pochino più grandicello, si divertono molto a individuare i punti magici che gli fanno stare bene, e quindi provate anche col punto P6, chissà se il dottor Giglioni lo conosce. Lo conosceva il punto P6? Il punto P6 è l'emergenza più superficiale del nervo radiale. Che sa tutto il dottor Giglioni. No, e tendenzialmente può funzionare. Perché a parte che distrarli con un giochino e un punto magico, come lei giustamente ha definito, fa sempre bene al bambino, perché la sua attenzione va chiaramente verso questa situazione e si distoglie quello che è il mal d'auto. Allora andiamo a sentire Vissia da Roma. Buongiorno. Che bel nome. Buongiorno, grazie. Sta viaggiando? Sì, sono appena rientrata in casa. Quando stavo sentendo la radio, stavo viaggiando. E allora ho detto, dai che chiamo. Esatto. Brava. Stavo viaggiando con mia figlia di 4 anni. Sì. E ovviamente lei era seduta dietro, legata sul passeggino. Sul seggiolino, ben allacciato. Fa storie oppure è ben... No, perché è sempre stata abituata così, quindi non conosce il viaggiare in altra maniera. Certo. Brava. Vissia, dottor, ha una domanda da fare al nostro esperto o vuole raccontare? Un'osservazione, nel senso che purtroppo io viaggio molto in macchina, circa 100 km al giorno. Sì. Su strade, diciamo, anche pericolose, come la Pontina, il Raccordo, insomma, le strade romane. E vedo bambini in braccio al passeggero oggi. A me sembra assurdo. Sì. Ci sono dei bambini che scorrazzano perché poi magari i genitori si sfiniscono, il bambino piange e allora cercano di privilegiare un po' il suo comfort, di assecondarlo, ma senza considerare che rischiano davvero fortemente. Dottor Giglioni, io devo salutarla solamente per il GR. Torniamo a parlare di sicurezza in auto, ma anche di sicurezza tra le mura domestiche. Cuore e denari. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina. Non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. Questa è una delle canzoni preferite da me e da Deborah, perché ci riporta quando eravamo bambini, ce le cantavano. A te la cantava il tuo papà, a me la mia mamma. Per addormentarmi, peraltro, non in macchina, dove lì vomitavo proprio sempre. Era un incubo. Con sacchetti, altro che punto P6. Mamma mia, quante volte l'ho fatto fermare. Ci voleva il dottor Giglioni, che è in linea con noi, quindi se state viaggiando e avete bambini a bordo, chiamateci 800 24 00 24, fateci viaggiare con voi. Noi ci portiamo anche il dottor Giglioni, con cui stiamo cercando di ricordare, ma ce lo state facendo anche voi, i consigli per proteggere i nostri bambini durante il viaggio. E quindi mi raccomando, se Giolino, dottor Giglioni, Vissia ci ha telefonato per dirci: la mia bambina, 4 anni, è nel sedile posteriore, sul seggiolino, ben allacciata. Dottore. Certamente, sì, ha telefonato e ha detto una cosa che ancora può succedere molto spesso e che non abbiamo ancora conoscenza della pericolosità di tenere un bambino tra le nostre gambe nel sedile anteriore, non di guida. Possiamo fare un esempio. Molto spesso i genitori pensano che andando molto piano in macchina non possa succedere niente. Ad una velocità di 40 km orari, in cui è una velocità molto lenta per cittadina, un tamponamento di un bambino che non è legato nel seggiolino e si presenta nelle ginocchia della mamma subisce un'accelerazione e uno subisce un peso che la mamma gli porta in avanti, che è 50 volte il peso della mamma. Wow. Pensa che anche le proporzioni, tu pensi, una mamma può pesare 50 kg, i 50-60 kg, i conti sono presto fatti. Stiamo parlando di sicurezza, attenzione anche a dove collocate il seggiolino, dottore. Bisogna ricordare che l'uso del sedile anteriore di per sé è sconsigliato perché è meno sicuro e comunque tassativamente vietato in tutte le auto munite di airbag. Esattamente sì, ecco. Le auto munite di airbag del sedile anteriore è sconsigliato a meno che ci si ricorda di disattivare l'airbag e di riattivarlo nel momento in cui non abbiamo più il bambino a bordo. Stiamo parlando anche di come affrontare viaggi più o meno lunghi per evitare il mal d'auto ai nostri bambini. Allora vi abbiamo chiesto di chiamare per raccontarci come li intrattenete. Sì. 800 24 00 24, se ce ne sono delle belle, la musica, il canto, vanno per la maggiore. Anche le audio fiabe scaricate, ci racconta Gennaro. E abbiamo anche Angelo che ci chiama da Milano. Buongiorno Angelo, benvenuto. Buongiorno, siamo sull'autostrada in provincia di Milano, anzi approfitto per comunicare che c'è coda attorno Lodi. Bene, grazie, e noi siamo qua in studio, non ci spostiamo, Angelo, grazie. Quindi c'è coda perché le famiglie iniziano a spostarsi, vanno a trovare amici, parenti, anche se dal nostro GR abbiamo sentito che quest'anno gli italiani staranno più a casa, approfitteranno magari dei musei aperti. Ma Angelo, lei sta andando non per farmi i fatti suoi? Eh no, ma per farceli. da sua dai nonni? Esatto, dai nonni in Puglia. Quindi, caspita, allora ha tempo di sentire è Radio 24. Partito, povero. E ha un bambino a bordo? Sì, un bambino di 21 mesi, Nicolò, che ora viene intrattenuto dalla madre con il tablet, però prima giocava con la frusta del battitore delle uova, oppure col burro cacao della mamma. Vabbè, la mamma è seduta a fianco al bambino nel sedile? Sì, è seduta a fianco nel sedile posteriore, il bambino è sul seggiolino Isofix. Vede, figlio unico. Quando Angelo, il suo bambino Nicolò, avrà un fratello, avrete tutti e due i seggiolini dietro, i due bambini si intratterranno da soli. Fin quando è figlio unico, la mamma gli siede di fianco. Il dottor Giglioni sicuramente ha ben presente questa situazione, no? Poi quando i bambini sono più di uno, si fa, eh? Dottor Giglioni? Sì. Ce lo siamo perse. No, pronto, sono qui. Sì. No, va benissimo, la mamma lo intrattiene e fa benissimo ad avere questo modo di interagire con il bambino e lo distrae da possibile mal d'auto, sicuramente, certamente fa benissimo quello che sta facendo, va benissimo. Intanto andiamo a Massimiliano che ci chiama da Fermo, buongiorno Massimiliano. Buongiorno. Benvenuto. A voi. Ci racconti Massimiliano? Dunque io soffro di mal d'auto fin da quando ero piccolo in maniera piuttosto grave, a volte ho un'autonomia di 5 chilometri a volte. Anche guidando Massimiliano? No, guidando ecco. No, anche perché sono perché a me fa lo stesso. Di commercio sarebbe sarebbe uno una tragedia. Ecco, mia figlia vedo che mi somiglia molto, ha una forma insomma abbastanza non grave come la mia, però l'unico modo per essere certo di non farla soffrire è o il farmaco, il dimenitrinato, oppure, e questo però io non posso, l'ho fatto solo una volta ma non lo ripeterò mai più perché non è sicuro, metterla distesa come se fosse a letto nel sedile posteriore. Ed è la stessa cosa che facevo io quando ero piccolo. Ecco, strano, perché in quella posizione sembra che si soffra di più e invece con la sua bambina funziona. Chiediamo aiuto al dottor Giglioni. Allora, dottor Giglioni, ci sono, spesso si dice che poi il problema, il mal d'auto, crescendo passa, invece no. A Massimiliano è rimasto, tanto che deve guidare perché sennò ha problemi, ma anche la sua bambina soffre molto il mal d'auto. La posizione stesa è una posizione che le permette di non avere nausea, ma non è molto sicura, anzi direi che è pericolosina. Pericolosa, ma la posizione è sdraiata e in molti bambini funziona, tanto è vero che anche nei bambini piccolissimi nel primo anno di vita la posizione nella navicella, proprio che è una posizione sdraiata, è la più sicura e nello stesso tempo la più adatta per non avere questi problemi. Allora abbiamo ancora Alessio che ci chiama da Roma, 800 24 00 24. Oggi vogliamo raccontare e chiacchierare un po' con i nostri ascoltatori che sono in viaggio. Alessio, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora io lei è tecnologico, Alessio, eh? Sì, perché? No, perché mi hanno anticipato il motivo della sua chiamata. No. Ah, ok, poi volevo fare una precisazione sui seggiolini in auto sul posto davanti. È solo quello messo in modo reverse che non si può installare con l'airbag, per gli altri non sono vietati. Non sono vietati, ma il dottor Giglioni diceva che è più sicuro tenerli. Molto meno sicuro, sì, vero. Ecco, guarda, perché noi partiamo un po' di guida sicura e vero? Cioè, è permesso, ma tutti dicono che il posto più sicuro è sia proprio quello del sedile posteriore. Alessio, e quindi dopo questo corso di guida sicura, lei come intrattiene il suo bambino? I miei due bambini li intrattengo intanto chiacchierando, parlando e dialogando durante i viaggi, anche brevi. E quando il viaggio è lungo invece con il tablet ho caricato dei film, il tablet viene messo in mezzo in maniera che possa essere non troppo fisso, in pratica segue l'andamento delle curve, con un semplice spago si regge con e gli faccio vedere la telefonia con il Bluetooth della macchina e loro si intrattengono è un cinema per lui, lo impegnano così, poi certo. Si mangia e si dorme. Una piccola sala cinematografica, pensa, volante. Pensa, noi siamo stati meno fortunati, e noi però cantavamo, non avevamo film, avevamo le favole. Io mi portavo dietro Topolino. Il gioco delle targhe, e per quello soffrivi, perché se tu vai in macchina e leggi, soffri. Soffri ancora. Dottor Giglioni, noi vogliamo anche trasferirci tra le mura domestiche, perché vogliamo così dare consigli ai genitori che hanno dei bambini piccoli in quella così fascia d'età che va dall'1 ai 3 anni, la fase dell'esplorazione, in cui i bambini portano tutto alla bocca e quindi non bisogna mai perderli d'occhio, anche se non si può proprio soffocare un bambino di troppe attenzioni. La casa, lo sappiamo, può essere e può nascondere molti insidi e pericoli che potrebbero causare gli incidenti. Ci sono dei dati che ci mettono paura solo a leggerli, ma lo sappiamo bene. Gli incidenti domestici per fortuna sono prevedibili e prevenibili, perché la sicurezza non è mai troppa, bisogna applicare alcune attenzioni e precauzioni. Iniziamo dal luogo che è più a rischio, che è la cucina, dottor Giglioni. Esattamente, sì. Allora, in cucina chiaramente le pentole vanno sempre messe nei pannelli più lontani, cioè quelli più vicini al muro e lontani dalla possibilità di essere raggiunti dai bambini. E non lasciare accendini o fiammiferi a portata dei bambini o altre sostanze detergenti. Questi sono i consigli della cucina, che è molto a rischio. Molto a rischio, ma anche il bagno è a tutto. Rischio, perché soprattutto sono a rischio quegli armadietti che si aprono, sì. E sono magari ad altezza di bambino. E poi impazziscono per aprire di tutto, è pazzesco. Basta una scatolina e attenzione ai medicinali. Dottor Giglioni, all'ospedale pediatrico Bambino Gesù avete fatto una sorta di campagna, no? Per sensibilizzare i genitori, che l'attenzione in questo caso non è mai troppa, anche se ci sono dei medicinali che hanno una chiusura di sicurezza. Ci sono casi, li vedete voi, soprattutto li vede lei, perché lei ha un ruolo, no? Abbastanza, esatto. Direi delicato. Sì. Perché sono responsabile di 12 posti letto, dove poi questi bambini purtroppo devono rimanere per qualche giorno, perché devono essere disintossicati o comunque bisogna fare gli accertamenti, perché chiaramente i medicinali sono uno dei motivi di pericolosità nei bambini, che toccano e aprono cassetti o trovano anche pasticche qualche volta dei nonni. Ecco, le pastigliette del nonno che magari se le prepara per prenderle nei vari orari. Dottor Giglioni, ma quali sono i casi più frequenti che lei si trova ad assistere? Ma intossicazioni da farmaci possono essere quelli che chiaramente prendono i genitori o i nonni addirittura, quindi farmaci che sono cardiotossici o per un bambino che non ne ha bisogno, o per terapie antipertensive, o bambini che prendono dei farmaci per colesterolo o altre sostanze. Insomma, ci vorrebbe. Poi ci sono tutti i problemi, i detersivi, poi no? Tutto. Anche, la casa se non... La candeggina. La candeggina, anche il lucido da scarpe, perché poi il pupetto, no, si è attratto da... Sempre dal proibito, brava. Dal più proibito che c'è in casa. Dottore, noi ci vorrebbe una puntata intera per elencare le sostanze potenzialmente pericolose che si trovano nelle nostre case, dai farmaci alle piante, ai detersivi, anche ai prodotti da giardino, adesso che si inizia, no, ad andare in campagna. Però diamo subito delle indicazioni chiare per i genitori in ascolto. Nel caso di ingestione accidentale di una sostanza che noi sappiamo tossica, ci voltiamo e vediamo che ha in bocca qualcosa, ha buttato giù qualcosa, che cosa dobbiamo fare? Soprattutto che cosa evitare di fare? Il latte, cercare di mettere due dita in gola? Dottore, ci aiuti? Esattamente, allora la cosa più importante è, intanto, se parliamo di farmaci e quindi di sostanze conosciute, è chiamare comunque il centro antiveleni, che darà tutte le informazioni possibili e immaginabili per come comportarsi prima di giungere chiaramente al pronto soccorso. Ecco, quindi una regola, un'indicazione da mamma, un suggerimento da mamma, dato che poi quando capitano, se capitano queste cose, uno al momento perde la testa, avete dei bambini piccoli a casa, mettetevi questo numero di telefono a portata, vicino al telefono, scaramanticamente, non vi servirà, però nel caso, perché poi cerca, ti fai prendere dall'affanno, il bambino piange, tu sei agitata, il numero non si trova. Quindi, numero del centroavelene. Centroavelene che ti dà tutte le indicazioni, ma anche noi dobbiamo essere pronti a dare le indicazioni utili. Quindi, dottor Giglioni? Se si tratta di farmaci, sapere che tipo di farmaco e il dosaggio di quel farmaco, quindi dominare il farmaco al centro antiveleni e la quantità che si sospetta possa aver preso di quel farmaco. Se si tratta di altre sostanze come caustici, candeggini o cose del genere, la cosa importante è non farlo vomitare o dare del latte, ma sempre allo stesso modo di chiamare il centro antiveleni e di portarlo nel frattempo al pronto soccorso più vicino. Il numero bisognerebbe tenerlo memorizzato anche nel cellulare. Bravo. Perché può essere sempre utile. Allora, ci sono i nostri ascoltatori che ci suggeriscono, no, altri possibili pericoli per i nostri bambini. Il più grave, ci scrive un ascoltatore, sono le prese elettriche. Lì si possono mettere le copriprese, però. Adesso sono un po' più sicure, certamente, questi dispositivi, però ancora magari qualche filo volante in qualche stanza, magari, che ne so, si sta facendo qualche lavoro e quindi, ecco, precauzione al massimo. Le pappe di cani e gatti, dottor Giglioni, è possibile? Le è mai capitato un bambino che ha mangiato la pappa del cane? No, le crocchette. Ma diciamo che è più pericoloso forse anche televisioni o cose mal gestiti, o esatto, che non hanno una sicurezza, perché i bambini molto spesso, quelli un po' più grandicelli, tendono a esplorare e a tirare dentro tutto, quindi molte volte ci è capitato bambini che sono stati travolti dal televisore che usciti dall'albano. Esatto. Attenzione. Vincenzo, buongiorno da Napoli. Salve, buongiorno. Buongiorno a lei. Ascoltavo la trasmissione, volevo segnalare una cosa pericolosissima che può accadere. Io ho due bambini, uno di 10 e uno di 4. Praticamente hanno questa voglia matta di fare la lotta sul letto. Sì. Perché allora, sul letto diventa, non si sa come mai, ha più appeal. Ecco. C'è più godure, loro godono praticamente... E quindi un trauma al midollo spinale che è capitato a un bambino che io conosco, il papà ha raccontato che è stata l'esperienza più brutta della sua vita. Vorrei vedere. Quindi se vogliono giocare a lotta, fare la lotta, cuscinate, vero, non sul letto ma ai piedi del letto. Anche la cuscinata magari, che ne so, del cuscino del divano, magari se è particolarmente violenta. Dottor Gigli, intanto ringraziamo Vincenzo da Napoli. Certamente. E intanto invitiamo i nostri ascoltatori a suggerirci, perché ci si è passati vicino a questa situazione così pericolosa, era capitata ad una amico. 800 24 00 24. Ringraziamo Vincenzo. Dottor Giglioni, è vero, ai bambini piace molto saltare sul letto. Sì, però è una zona molto pericolosa, però è pericolosissima. Sì. Ma basta ricordare purtroppo che la prima causa di morte dei bambini sono gli incidenti domestici, la prima causa di morte dai bambini da 1 a 14 anni sono gli incidenti domestici e non altre situazioni. È la casa il posto, esatto, meno sicuro per i bambini, più che il, no? Più che il giardinetto dove magari le mamme portano i bambini, temiamo che cadano, che si sbuccino le ginocchia, questo niente, anzi aiuta a crescere, ma la casa proprio, anzi ci sono degli studi che hanno evidenziato le ore più a rischio, vero dottor Giglioni? Esatto. Che sono quelle che coincidono con la preparazione dei pasti, perché esatto, il bambino viene parcheggiato un attimo lì dalla mamma, è tutto tranquillo, ma loro improvvisamente si alzano, sono attratti da qualche cosa e si ficcano nei pericoli. Esatto. Aggiungerei anche l'attenzione in questi giorni alle uova di Pasqua e a tutti i giochini che troviamo, no? Dentro, dottore, ecco, perché magari... Perché i giochini, se non sono ideali per la fascia di età, sono pericolosissimi per l'ingestione, ma non più che altro per l'inanazione. Ma la casa è tutta una situazione, la terrazza, le scale, il bagno, il salotto, tutti possono essere zone che sono a rischio di incidenti purtroppo, quindi bisogna stare molto attenti. E adesso a proposito, suggeriva Deborah per le uova di Pasqua, apriranno le uova di Pasqua, cioccolato al latte fondente, insomma gratificante, ma attenzione alle sorpresine che sono all'interno, sono piccole, il bambino può metterle in bocca, magari anche prende quello del fratello, per questo dottor Giglioni, il bambino Gesù di Roma ha fatto delle iniziative molto, no, per sensibilizzare sensibilizzare i genitori sull'attenzione che si deve avere anche nel dare ai bambini l'età proprio adeguata, il giocattolo adeguato alla propria età. Esattamente sì, perché ci sono dei giocattoli che nei bambini piccoli, siccome sono molto curiosi e portano tutto alla bocca, possono essere pericolosissimi di inalazione e di problemi respiratori gravissimi, per cui su quello bisogna fare molta attenzione. Carlo, adesso c'è veramente un tam tam degli ascoltatori, non so se è già pazzesco, stato detto, sì. le monetine e anche i bottoncini, dottor Giglioni. I bottoncini, ma anche le pile degli giocattoli che sono. Ecco, abbiamo 30 secondi. Le pile sono veramente un problema molto serio. I bambini le buttano giù e, dottor Giglioni, sono dei danni terribili. Molto rischiosissime. Le pile sono delle cose molto rischiose, specialmente quelle superiori di grandezza superiore ai 5 mm e che hanno chiaramente nuove e che hanno quindi una polarità molto alta che determina nel nostro intestino delle ustioni gravissime. Quindi giochiamo con i nostri bambini, diamo i giochi per la loro età, godiamo i nostri bambini, buona Pasqua a tutti. Ottimo, noi ci ritroviamo qua martedì prossimo, naturalmente con la nostra diretta, peraltro torneremo a parlare in qualche maniera di bambini, un po' più grandicelli, perché ripescheremo un po' le dichiarazioni del ministro Poletti sul lavoro estivo, quindi stiamo già preparando una bella puntata per il nostro rientro. E salutiamo anche Roberta Frisani, certo, in regia la parte tecnica, Isotta Scenna. Marco lo salutiamo, è in vacanza, e noi naturalmente buona Pasqua, buona Nicoletta, Pasqua anche auguroni, a presto. Cuore e denari.